bianco per me che vado giù. Ehi, va bene, ok, Antò. Sì, va bene. No, era quello modificato, quello con la scheda accolta. Che ce l'ho un po' fermo, adesso ho un po' di tempo. Cazzo, ma c'è un po' attaccanti, poi, lo sai, no, il lavoro che c'è da fare lì. Ti sta aspettando la scrivania, quindi una volta che poi c'è tutta la scrivania che metti tutto in ordine lì, e li metti tutti e due, con il commutatore ti ricommuti e puoi usare sia uno che l'altro. No, va bene, la giusto per, capito. Va bene. No, Massimiliano, lascialo stare. Voglio usare il mio, voglio usare l'Elbex, perché altrimenti uso sempre la roba tua e lì l'ho attaccato di nuovo. È venuto un sacco bellino, ho messo tipo meglio quelli cromati, il pomellone cromato, ho tolto tutto quelli neri che erano brutti, capito? L'ho fatto bello, esce anche bene, esce molto bene. Anzi, mi aspetta che te lo commuto, perché voglio sapere appunto col lineare mio se satura in... se è abbordabile, dai, la modulazione, sai che commuto. Io vai. Allora, così è liscio, praticamente liscio un par di palle. Sì, allora c'ha picchi, così siamo a 5 watt, da 5 a 10 watt, Massimiliano. Guarda, c'è una radio allucinante, devi ammassare un pochino qua. E tu li dimmi come c'hai invece. E tu li come li avevamo messi, ce li ho a 1,5. Ok, invece Michigan del microfono. Michigan del microfono è a 8. Appena che abbassare, cazzo, mi si scendiamo di la reci. Così è a 7, a 6, dai. Già, così è meglio. Così è buona, Cla. Allora, guarda Massimiliano, agganciando, allora, devo mettere così però, ecco qua. Se agganciando cambia sia di segnale che di radio. Allora, così agganciato, mettiamo in scala 200, guarda se cambia la modulazione e se il segnale è salito. Allora, il segnale è salito 9 più 15 e la radio è aumentata un po'. Però devi provare un'altra cosa, Cla. I vati tutti chiusi, ce li ha di quella radio? Sì, praticamente sì, 5 watt, però c'ha picchi quasi a... te l'ho detto. I watt sono chiusi, perché va da 5, 4, 4, 5, sino a praticamente 18, capito, di picchi. Cazzo, sì, 9,20 sei qua, aumenta parecchio la radio, maledetta. Avanti sei volte, io ti andavo a vedere i bari negati in Piazza d'Italia. La radio è molto, molto, molto forte, ma proprio molto forte, grazie di un barraleci. Questo è l'MB più 5, quello che avevo comprato da Gigi, e l'Airbex. Là, senza nessuna offesa, secondo me deve ammassare ancora un po', perché sei troppo forte. Troppo forte, allora lo mettiamo a 5, guarda, così a 5. Ecco, così è più bella anche. Anche come tonalità, va bene? Sì, la tonalità come che sia in verticale, così è molto più bella, Cla, troppo forte. Ma c'è comunque l'amplificazione, non me la fare togliere. Guarda se invece salgo ancora di un'attacca, se è così va in saturazione oppure si può tenere? No, si può tenere però si è al limite. Sì, vabbè, al limite, ma fai facciare auguri, allora lo rimettiamo così com'è, dai. Va bene. Se c'è una radio con l'Airbex è allucinante. Questo, ma contare più tre c'ha molti più acuti, mentre con questo invece riesco a stabilizzarla un pochino, perché mi regolo la cosa, come si dice, i toni, capito? I toni me li avevi fatti mettere a 1,5 e li ho lasciati sempre così. No, i toni va bene, la radio è un bel forte, è una cosa impressionante. Va bene sta radio, va bene, per quello te l'ho detto, mi ho messo, ma è bella, mi l'ho fatta molto molto bella la sedia, sembra un'altra radio. I quattro pomelli cromati, tutte cazzo, poi i tastini che c'ha sono tutti cromati, e il pomellone nero con la cromatura in giro, ma sai quanto è bellino? No, ma poi come radio proprio è allucinante, proprio bella. Va a 260 canali sta radio. È buono. C'hai vate regolabili, c'hai 240 canali. Sì, 240, scusa, 240, sì. c'ha l'SSB e le manca solo l'FM e basta. Aspetta un secondo, mi sta dicendo una cosa da vuole, aspetta. Io. Allora, Cla, se mi dai 2 minuti io così ti preparo tutto la manavano per portarti su, così parto da casa e ti avvicino il tutto. Stai partendo adesso? Dammi, almeno guarda, fai, non è solo le 7:10, ai 20 io parto da qua all'incirca, là. Vabbè, dai, prima delle 8 sei qua, non c'è problema. Già sono qua, Massimiliano. Allora, mi confermi che devo lasciare tutto così? In che marcia sei lì? In quinta. Buona prova, prova in quarta? Così sono in quarta. È buona anche così la radio. Sì, mi sono accorto che tra quarta e quinta non cambia molto la radio. Mi cambia un pochino in cuffie, però è chiaro che c'è troppo segnale, anche se attenuo non va bene. Me la mangia un pochino, però in sesta, mentre in quarta e quinta non cambia niente. La gente lo sta vedendo su Malavare, oi, cosa è la radio? Vabbè, gara, anda bene, dai, adesso ti metto tutto dentro la Malavare e poi te la avvicino, poi scendo a prendere il tutto e poi già ci sentiamo via motozappa, via... Non c'è problema, là. Quella grande non la mettere dentro la busta, prendila dalla maneccia, capito? Mentre l'altra roba la metterla dentro un sacchetto. E poi già mi spieghi come agganciarlo, là. Come agganci quello, agganci questo, la stessa cosa. Vabbè, allora tolgo questo e metto quello lì, dai. Buono, uno è andato all'altro, quando accendi uno si accendi tutti e due. Piggio butto e suma confusione. Che c'è tarda, invece ha fatto lo, come si dice, certo mamma dice una frase, non me la metto mai, tipo l'uroro, boh, non lo so, bisogna domandare proprio io, l'uroro, come si dice in Algarese? L'urullo. Il rullo sì. Allora deve essere così. Perché come arrulla, no, a scherreggia dice qui. No, a scherreggia non è la stessa cosa, perché scherreggia vuol dire scivolato. Quando uno dice sono scivolato, si dice sono a scherriate. Sono scherriate, No, io dico a scherreggia nel senso che scivola, mi capito. Perché uno dice non è che si scherreggia, capito? Cioè qua si scivola. Gava gava, dai Crozier, ci aggiorniamo a motozappa, ti funziona? Ah Crozier, ti funziona la motozappa? Hola mio hermano, vamos a ver se va scusciando qua a nord dell'isola della Sardegna, adelante mio hermano. Ehi Massimiliano, dai organizzati che c'è il foro acceso, ha scattato nuovamente il salvavita, c'ho tutto acceso qua. Ah ok, ti chiedevo se ti funziona la motozappa. Sì, già sta funzionando. Ok, va. Ah, più tardi allora, dopo ciao. Ciao, Massimiliano, ciao, a dopo.